Un romanzo difficile da scrivere, ma anche da leggere e da ascoltare, è questo Lelia, opera seconda di Aurore Amandine Dupin in arte George Sand. Perché l'intreccio non è fondamentale in questo libro quanto l'indagine approfondita e autobiografica che la grande autrice e attivista francese ottocentesca traccia riguardo al malessere psicologico della protagonista, Lelia per l'appunto. La fama letteraria di George Sand è stata riscoperta dalla critica femminista di recente, critica che ha sentito finalmente portati alla luce i problemi psicologici e sessuali delle donne attraverso il racconto di Lelia e anche un altro tema di vitale importanza per l'universo femminile precedentemente trascurato, gli effetti devastanti dell'aggressione sessuale anche della prima notte di nozze. Sappiamo che nella società androcentrica, patriarcale, quello che da sempre è permesso all'uomo è negato alla donna. Le donne hanno taciuto finché George Sand, per la prima volta nella storia, ha trovato il coraggio di contestare tutto a viso aperto e senza mezzi termini, raccontando finalmente il mondo dalla parte delle donne. Le sue lettere aprono per la prima volta nella storia uno squarcio sul vero universo segreto dell'intimità femminile, non quello letterario. Universo che appare subito notevolmente diverso da quello che l'uomo pensa e da tutta la cultura androcratica basata esclusivamente sulla fisicità. 20 anni dopo, l'inglese Elizabeth Gaskell, nel suo eccezionale romanzo Ruth, dalla scuola delle donne già proposto in lettura integrale e divenuto anch'esso un simbolo della lotta femminista per il rispetto dei diritti delle donne, prenderà le parti di una donna ingannata, sedotta e poi abbandonata, coi conseguenti devastanti effetti sulla vita della protagonista. Ma Amandine, George Sand, lo ha fatto per prima e raccontando la sua storia personale, senza artifici né ipocrisie. Al poeta de Musset, con il quale aveva avuto una relazione, scrive: «Che sia stata la tua amante o tua madre, poco importa. Che ti abbia ispirato amore o amicizia, tutto questo non cambia niente». E de Musset scrive di lei che è stata la donna più donna che lui abbia mai conosciuto. Lelia esce in prima edizione nel 1833. 2 anni dopo, Amandine vuole la separazione del marito, la cui amministrazione dei beni di lei è rovinosa. Riesce a ottenere il divorzio, l'affidamento dei figli e l'amministrazione della sua proprietà lasciatale dalla nonna, grazie al contributo fondamentale del suo avvocato Michel de Bourges, che l'aiuterà a vincere una causa difficilissima e la introdurrà alle idee socialiste. Dopo la lunga relazione, poi amicizia con Chopin, Amandine si allontana sempre più da Parigi per vivere ritirata nell'amata Nohant, la tenuta di sua proprietà, lasciatale, come dicevamo, dalla nonna. Circondata dalla famiglia e da molte amiche, amici e artiste a cui dava alloggio e ospitalità, continuando a scrivere fino alla fine dei suoi giorni. La sua biografa, Francine Mallet, scrive: «Se si attribuiscono alle donne gli stessi diritti degli uomini, cosa che lei, George Sand, non ha mai smesso di rivendicare, il numero dei suoi amanti non è affatto superiore a quello degli amanti di molti scrittori suoi contemporanei. Ma come sappiamo e abbiamo già detto molte volte, nonostante la critica l'abbia descritta come una donna dall'insaziabile appetito sessuale, nulla è più falso di questa narrazione patriarcale, costruita ad hoc per screditarla». Infatti, Amandine soffriva di frigidità da trauma della prima notte delle nozze, come emerge in una lettera da lei scritta al fratello, dove gli raccomanda: «Impedisci che tuo genero brutalizzi tua figlia la prima notte di nozze. Gli uomini non si rendono conto abbastanza di quanto questo divertimento sia un martirio per noi. Digli di mettere da parte un po' dei suoi piaceri e di condurre poco a poco sua moglie a comprenderli e a corrispondervi. Nulla è tremendo come lo spavento, la sofferenza e il disgusto di una povera fanciulla violentata da un bruto». La continua ricerca dell'amore unico e perfetto la spinse spesso a cambiare amante, senza tuttavia mai trovare appagamento per la sua anima. E questo ci fa pensare Anche se sappiamo che la critica tradizionale griderà allo scandalo per queste nostre parole, alla mistica erotica medievale, dove donne e monache scrivevano e si dedicavano all'uomo divino, l'unico che non le spaventava né maltrattava, provando per lui un amore completo e non solo spirituale, come emerge senza ombra di dubbio dagli scritti di Matilde di Magdeburgo o Adwaes di Anversa. La ricerca di un amore dolce, tenero, rispettoso e appagante, paritario, ha sempre fatto parte della vita delle donne, che l'hanno espresso in modi diversi, a seconda dei tempi, ma uguale nella sostanza. Le contemporanee di George Sand, femministe, la esortarono a entrare in politica, ma lei rifiutò, adducendo le seguenti spiegazioni. Le condizioni sociali sono tali che le donne non potrebbero esplicare onorevolmente e lealmente un mandato politico, dato che la donna è per matrimonio sotto la tutela e la dipendenza dell'uomo, è assolutamente impossibile che offra garanzie di indipendenza politica. La liberazione della donna, prosegue George Sand, consiste semplicemente nel rendere alla donna i diritti civili che solo il matrimonio le toglie, che solo il rimanere nubile le conserva. Solo il diritto del dispotismo attribuisce al marito il diritto di rifiutare di sottoscrivere le condizioni materiali per la felicità della donna e dei figli, il diritto di adulterio, il diritto all'uccisione della donna infedele, il diritto di dirigere, escludendo la moglie, l'educazione dei figli, quello di corromperli con esempi e principi cattivi, dando loro le proprie amanti come governanti. Il diritto di ridurre la moglie alle privazioni della miseria, scialacquando con ragazze la rendita o il capitale che appartengono a lei, il diritto di picchiarla, e infine il diritto di disonorarla e offenderla con sospetti ingiusti. Amandine Aurore Dupin ha per tutta la vita la forza di battersi per l'istruzione alle donne e difende con coraggio la parità di diritti. L'ELIA è stato usato contro di lei nel processo di divorzio per dimostrare la sua dissolutezza morale. La Scuola delle Donne è orgogliosa di offrirvi per la prima volta in italiano il suo romanzo autobiografico Lelia, versione originale scaricata gratuitamente da internet dalla Bibliothèque du Québec, tradotta apposta per noi dalla nostra alunna e sorella Francesca Grandi. Questa è la prima versione scritta da George Sand nell'anno 1833. Da Devana, buon ascolto. Parte prima 1. Chi sei? E perché il tuo amore fa così tanto male? In te ci deve essere un terribile mistero sconosciuto agli uomini. Di certo non sei un essere impastato con lo stesso terriccio e animato dalla stessa vita che abbiamo noi. Sei un angelo o un demone, ma non sei una creatura umana. Perché nasconderci la tua natura e la tua origine? Perché dimori in mezzo a noi, che non possiamo né bastarti né comprenderti? Se vieni da Dio, parla e ti adoreremo. Se vieni dall'inferno, tu vieni dall'inferno. Sei così bella e così pura. Gli spiriti del male hanno quello sguardo divino, quella voce armoniosa e quelle parole che sollevano l'anima e la portano al trono di Dio. Eppure, Lelia, c'è qualcosa di infernale in te. Il tuo sorriso amaro smentisce le promesse celestiali dei tuoi occhi. Alcune delle tue parole sono desolate come l'ateismo. Ci sono momenti in cui ci fai dubitare di Dio e di noi stessi. Perché? Perché, Lelia, sei così? Cosa si fa della propria fede? Cosa si fa della propria anima quando si nega l'amore? Oh cielo, tu che pronunci questa bestemmia! Ma chi sei tu se pensi quello che a volte dici? 2. Ho paura di te. Più ti vedo e meno ti immagino. Mi sballotti in un mare di preoccupazioni e dubbi, sembra che tu faccia un gioco con le mie ansie. Mi sollevi al cielo e mi calpesti, mi porti con te nelle nuvole radiose, poi mi scaraventi nel caos nero. La mia debole ragione soccombe a queste prove. Risparmiami, Lelia. Ieri, mentre camminavamo sulla montagna, eri così grande, così sublime, che avrei voluto inginocchiarmi davanti a te e baciare le impronte imbalsamate dei tuoi passi. Quando Cristo si trasfigurò in una nube d'oro e sembrò nuotare in un fluido infuocato agli occhi dei suoi apostoli, questi si prostrarono e dissero: Signore, tu sei veramente il Figlio di Dio. E poi, quando la nube fu passata e E il profeta scese dalla montagna con i suoi compagni. Probabilmente si chiesero preoccupati: ma quest'uomo che cammina con noi, che parla come noi, che va a cena con noi, è lo stesso che abbiamo appena visto avvolto in veli di fuoco e che irradia lo spirito del Signore? Lo stesso vale per te, Lelia. Ogni momento ti trasfiguri davanti a me e poi ti spogli della divinità per tornare a essere mia pari. E allora mi chiedo con timore se tu non sia una potenza celeste, un nuovo profeta, il Verbo incarnato ancora una volta in forma umana, e se tu non stia facendo questo per mettere alla prova la mia fede e per sapere tra noi chi sono i veri credenti. Ma Cristo, quel grande pensiero personificato, quel tipo sublime di anima immateriale, fu sempre al di sopra della natura umana che aveva assunto. Anche se era tornato uomo, non poteva nascondersi così bene da non essere sempre il primo tra gli uomini. Ciò che mi spaventa è che quando scendi dalle tue glorie non sei più nemmeno al nostro livello, cadi al di sotto di noi e sembra che cerchi di dominarci solo per la perversità del tuo cuore. Per esempio, cos'è quest'odio profondo, bruciante, inestinguibile che hai per la nostra razza? Si può amare Dio come te e odiare le sue opere in modo così crudele? Come conciliare questa miscela di fede sublime ed empietà incallita, questi impulsi verso il cielo e questo patto con l'inferno? Ancora una volta, da dove vieni, Lelia? Quale missione di salvezza o di vendetta stai portando avanti sulla terra? Ieri, quando il sole scendeva dietro al ghiacciaio, annegato in vapori rosa bluastri, quando l'aria calda di una bella sera d'inverno scivolava tra i tuoi capelli e la campana della chiesa lanciava le sue note malinconiche agli echi della valle, allora, ti dico, Lelia, eri davvero la figlia del cielo. La luce soffusa del tramonto è venuta a morire su di te e ti ha circondato con un riflesso magico. I tuoi occhi, alzati verso la volta azzurra, dove si intravedevano a malapena alcune timide stelle, brillavano di un fuoco sacro. Io, poeta dei boschi e delle valli, ascoltavo il misterioso mormorio delle acque, osservavo le morbide ondulazioni dei pini debolmente scossi. Respiravo il dolce profumo delle violette selvatiche che al primo giorno caldo che arriva, al primo raggio di sole pallido che le invita, aprono i loro calici azzurri sotto il muschio riarso. Ma non hai pensato a tutto questo? Nei fiori, nelle foreste, nel torrente hanno richiamato la tua attenzione. Nessun oggetto sulla terra destava i tuoi sensi. Eri tutta in paradiso. E quando ti ho mostrato lo spettacolo incantato che giaceva sotto i nostri piedi, mi hai detto, alzando la mano verso la volta eterea: guarda, oh Elia. Avevi nostalgia della tua patria, vero? Stavi chiedendo a Dio perché ti ha dimenticata per tanto tempo tra noi, perché non ti ha ridato le tue ali bianche per salire a Lui. Ma ahimè, quando il freddo che cominciava a soffiare sull'erica ci costrinse a cercare riparo in città, quando attratto dalle vibrazioni di questa campana ti pregai di entrare in chiesa con me e di partecipare alla preghiera della sera, perché Lelia non mi lasciasti? Perché tu, che puoi certamente fare cose più difficili, non hai fatto scendere una nube dall'alto per velare il tuo volto a me? Ahimè, perché ti ho vista lì, in piedi, con la fronte aggrottata, con un'aria altezzosa e arida, perché non ti sei inginocchiata sulle lastre che erano meno fredde di te? Perché non hai incrociato le mani sul petto di quella donna che la presenza di Dio avrebbe dovuto riempire di tenerezza o di terrore? Perché questa calma superba e questo apparente disprezzo per i riti del nostro culto? Non adori il vero Dio, Lelia? Vieni dalle terre ardenti dove si sacrifica Brahma? O dalle rive di quei grandi fiumi senza nome dove l'uomo implora lo spirito del male piuttosto che quello del bene? Perché non conosciamo la tua famiglia, né i climi in cui sei nata, nessuno lo sa, e il mistero che ti circonda ci rende superstiziosi, nostro malgrado. Insensibile, tu senza Dio. Oh, non può essere. Ma dimmi, in nome del cielo, che ne è di quest'anima, di questa grande anima, in queste ore terribili, dove scorre la poesia, dove trabocca l'entusiasmo e il cui fuoco ci conquista e ci trasporta al di là di tutto ciò che avevamo provato? A cosa pensavi ieri? Cosa hai fatto tu stessa? Quando eri lì, silenziosa e congelata nel tempio, in piedi come il fariseo a misurare Dio senza tremare, sorda agli inni sacri, insensibile all'incenso, ai fiori che si sono diradati, ai sospiri dell'organo, a tutta la poesia del luogo santo. Eppure quanto era bella questa chiesa impregnata di profumi umidi, pulsante di sacre armonie. Quanto bianca e spenta la fiamma delle lampade d'argento esalava nelle nuvole opaline del benzoino ardente, mentre le cassette di vermeil inviavano alla volta le graziose spirali di un fumo profumato. Con quanta leggerezza e luminosità le stecche dorate del tabernacolo si alzavano sotto il riflesso delle candele, e quando il sacerdote, quell'alto e bel prete irlandese dai capelli così neri, dalla statura così maestosa, dagli occhi così austeri e dalla parlata così sonora, scese lentamente i gradini dell'altare, trascinando il suo lungo mantello di velluto sui tappeti, quando alzò la sua grande voce triste e penetrante come i venti che soffiano nella sua patria, quando ci disse, mentre ci presentava l'ostensorio splendente, quella parola così potente nella sua bocca, Adoremus, allora, Lelia. Fui presa da un santo spavento e gettandomi in ginocchio sul marmo mi battei il petto e abbassai gli occhi, ma il tuo pensiero è così intimamente legato nella mia anima a tutti i grandi pensieri che mi sono rivolto a te quasi subito per condividere con te questa deliziosa emozione, o forse che Dio mi perdoni per rivolgerti in metà di queste umili adulazioni, ma tu eri in piedi. Non avevi piegato il ginocchio, non avevi abbassato lo sguardo, il tuo sguardo superbo vagava, freddo e scrutatore, sul sacerdote, sull'ostia, sulla folla prostrata. Nulla di tutto ciò parlava. Da solo, da sola, tra tutti noi, ti sei rifiutata di pregare Dio. Sei dunque un potere superiore a Lui? Bene, Lelia, che Dio mi perdoni ancora, per un attimo. Gli ho creduto e ho quasi ritirato il mio omaggio per offrirlo a te. Mi sono lasciato abbagliare e soggiogare dal potere che era in te. Ahimè, devo confessare che non ti ho mai vista così bella. Eri pallida come una delle statue di marmo bianco che vegliano sulle tombe e non avevi nulla di terreno. I tuoi occhi brillavano di un fuoco scuro e la tua vasta fronte, da cui avevi spinto via i tuoi capelli neri, si ergeva sublime. Di orgoglio e genio al di sopra della folla, del sacerdote, di Dio stesso. Questa profondità di empietà era spaventosa e vederti guardare così lo spazio tra noi e il cielo faceva sentire piccolo tutto ciò che c'era. Ti ha visto Milton quando ha reso così nobile e bella la fronte folgorata del suo angelo ribelle? Devo raccontarti tutti i miei terrori. Mi è sembrato che nel momento in cui il sacerdote si è alzato, sollevando il simbolo della fede sulle nostre teste chinate, ti abbia vista davanti a lui, in piedi, come lui, solo, con lui, soprattutto. Sì, mi è sembrato che allora il suo sguardo profondo e severo, incontrando il tuo sguardo impassibile, si sia abbassato davanti a te. Mi è sembrato che questo sacerdote impallidisse, che la sua mano tremante non riuscisse più a tenere il calice e che la sua voce si spegnesse nel suo vasto petto. È stato un sogno della mia turbata immaginazione o l'indignazione ha soffocato il ministro dell'Altissimo quando ti ha vista resistere all'ordine emanato dalla sua bocca? O forse, tormentato come me da una strana allucinazione, ha pensato di vedere in te qualcosa di soprannaturale, un potere evocato dal seno dell'abisso o una rivelazione inviata dal cielo? 3. Che ti importa di questo, giovane poeta? Perché vuoi sapere chi sono e da dove vengo? Sono nata come te nella Valle delle Lacrime. E tutti gli sfortunati che strisciano sulla terra sono miei fratelli e sorelle. È così grande questa terra che un pensiero abbraccia e una rondine gira intorno in pochi giorni? Cosa può esserci di strano e misterioso in un'esistenza umana? Quale grande influenza pensi che abbia un raggio di sole più o meno verticale sulle nostre teste? Forza! Tutto questo mondo è lontano da te, è freddo, pallido e ristretto. Chiedi al vento quante ore ci vogliono per spostarlo da un palo all'altro. Se fossi nata all'altro capo, ci sarebbe comunque poca differenza tra me e te, entrambi condannati a soffrire. Ambedue deboli, incompleti, feriti da tutti i nostri piaceri, sempre preoccupati, desiderosi di una felicità senza nome, sempre al di fuori di noi stessi. Questo è il nostro destino comune. Questo è ciò che ci rende fratello e sorella e compagni nella terra dell'esilio e della servitù. Mi stai chiedendo se sono un tipo di essere diverso da te? Pensi che io non soffra? Ho visto uomini che erano più infelici di me e donne nelle loro condizioni, ma molto meno nel loro carattere. Non tutti gli uomini e le donne hanno la facoltà di soffrire nella stessa misura. Agli occhi del grande creatore delle nostre miserie, queste varietà di organizzazione sono senza dubbio di scarsa importanza. Per noi che abbiamo una vista così limitata, passiamo metà della nostra vita a scrutarci a vicenda e a prendere nota delle sfumature, della sfortuna che ci si rivela. Che cos'è tutto questo davanti a Dio? La differenza tra i fili d'erba del prato è davanti a noi. Ecco perché non prego Dio. Cosa dovrei chiedergli? Che cambi il mio destino? Riderebbe di me. Che mi dia la forza di lottare contro il mio dolore? Lui me l'ha data la forza, sta a me usarla. Mi chiedi se adoro lo spirito del male. Lo spirito del male e lo spirito del bene sono un unico spirito. È la volontà sconosciuta e misteriosa che è al di sopra delle nostre volontà. È Dio stesso, il bene e il male sono distinzioni che abbiamo creato noi. Dio non le conosce così come non conosce la felicità e la sfortuna. E quindi non chiedere né al cielo né all'inferno il segreto del mio destino. E a te che potrei rimproverare di gettarmi costantemente al di sopra e al di sotto di me stessa. Poeta, non cercare in me questi profondi misteri. La mia anima è sorella della tua, la sconvolgi, la spaventi sondandola in questo modo. Prendila per quella che è, per un'anima che soffre e aspetta. Se la metti in discussione così pesantemente si ritirerà in se stessa e non oserà più aprirsi a te. 4. La durezza della mia sollecitudine per te l'ho espressa troppo francamente, Lelia. Ho ferito il sublime pudore della tua anima. È perché anch'io sono molto infelice, Lelia. Pensi che io abbia l'occhio curioso di un filosofo su di te e ti sbagli? Se non sentissi di appartenerti, se non sentissi che la mia esistenza è ormai legata indissolubilmente alla tua, se in una parola, non ti amassi appassionatamente, non avrei l'audacia di metterti in discussione, nemmeno se fossi il soggetto più straordinario offerto alle osservazioni del fisiologo. Quindi questi dubbi, queste preoccupazioni che ho osato dirti, tutti coloro che ti hanno visto le condividono, si chiedono con stupore se sei un'esistenza maledetta o privilegiata, se sei da amare o da temere, da accogliere o da respingere, persino il volgo grossolano perde la sua noncuranza per occuparsi di te. Non capiscono l'espressione dei tuoi lineamenti e il suono della tua voce, e a sentire le storie assurde di cui sei oggetto, si capisce che queste persone sono ugualmente pronte a cadere in ginocchio al tuo passaggio o a evocarti come una peste. Le intelligenze superiori ti osservano con attenzione, alcune per curiosità, altre per simpatia, ma nessuna di loro, come me, fa della soluzione del problema una questione di vita o di morte. Solo io ho il diritto di essere audace e di chiederti chi sei, perché lo sento intimamente e questa sensazione è legata a quella della mia esistenza. Ormai faccio parte di te. Ti sei impossessata di me, forse senza che tu lo sappia, ma finalmente eccomi schiavizzato. Non appartengo più a me stesso, la mia anima non può più vivere in se stessa. Dio e la poesia non le bastano più. Dio e la poesia sono te ora, e senza di te non c'è poesia, non c'è Dio, non c'è niente. Dimmi allora, Lelia, visto che vuoi che ti prenda per una donna e che ti parli come a una mia pari, dimmi se hai la forza di amare, se la tua anima è di fuoco o di ghiaccio, se nel darmi a te, come ho fatto, ho fatto i conti con la mia perdita o con la mia salvezza, perché non lo so e non guardo senza timore all'ignota carriera in cui devo seguirti. Questa Questo futuro è avvolto da nubi, a volte rosa e brillanti come quelle che salgono all'orizzonte al sorgere del sole, a volte rosse e scure come quelle che precedono la tempesta e nascondono i fulmini. Ho iniziato la vita con te, o l'ho lasciata per seguirti nella morte. Questi anni di calma e innocenza che ho alle spalle appassiranno o ringiovaniranno. Ho conosciuto la felicità e la perderò o, non sapendo cosa sia, la saporerò. Quegli anni sono stati molto belli, molto freschi, molto dolci, ma erano anche molto silenziosi, molto bui, molto sterili. Cosa ho fatto se non sognare, aspettare e sperare da quando sono venuto al mondo? Potrò finalmente produrre qualcosa di buono? Vuoi fare di me qualcosa di grande o di abietto? Uscirò da questa nullità, da questo riposo che comincia a pesarmi, ne uscirò in ascesa o in caduta? Questo è ciò che mi chiedo ansiosamente ogni giorno e tu non mi rispondi nulla e sembra che tu non abbia idea che davanti a te c'è un'esistenza in questione, un destino che grava su di te e di cui ora devi rendere conto a Dio. Sbadata e distratta hai afferrato l'estremità della mia catena e ogni volta che la dimentichi la lasci cadere. Ogni momento, temendo di vedermi solo e abbandonato, devo chiamarti e costringerti a scendere da quelle regioni sconosciute dove ti stai precipitando senza di me, crudele Lelia. Quanto sei felice di avere la tua anima così libera e di poter sognare da sola, amare da sola, vivere da sola. Non ce la faccio più. Ti amo, amo solo te. Tutti quei tipi di bellezza aggraziata, tutti quegli angeli vestiti da donna che passavano nei miei sogni lanciandomi baci e fiori, non esistono più, non si presentano più nello stesso stato di veglia né in quello di sonno. Sei tu ora, sempre tu che vedo pallida e calma e triste e silenziosa al mio fianco o nel mio cielo. Oh, sono infelice. La mia situazione non è ordinaria, non si tratta solo di sapere se sono degno di essere amato da te, non so se sei capace di amare un uomo. E traccio questa parola solo con sforzo, tanto è orribile. Penso di no. Oh Lelia, risponderai questa volta. Ora rabbrividisco per averti interrogata. Domani avrei potuto vivere di dubbi e fantasie, domani forse non ci sarà più nulla da temere o da sperare. 5. Bambino che sei. Siete appena nati e avete già fretta di vivere. Perché devo dirti che non hai ancora vissuto, Stenio. Definirò la vita per te in due parole, ma più tardi. Perché hai tanta fretta? Hai paura di non raggiungere quella maledetta meta in cui tutti falliamo? Crollerai con gli altri, Stenio. Quindi prenditi il tuo tempo, marina la scuola, varca la soglia della scuola dove impariamo la vita il più tardi possibile. Bambino felice che si chiede dove sia la felicità, come sia fatta, se l'abbia già assaggiata, se sia chiamato ad assaggiarla un giorno. Oh, profonda e preziosa ignoranza, non ti risponderò, Stenio. Non temere, non ti farò mancare nulla di ciò che vuoi sapere, se io amo, se posso amare, se ti darò la felicità, se sono buona o perversa, se sarai reso grande dal mio amore o distrutto dalla mia indifferenza. Tutto questo, vedi, è un sapere inconscio che Dio rifiuta di darti alla tua età e che mi proibisce di dare a te. Aspetta. Ti benedico, giovane poeta. Dormi in pace. Verrai il domani, bello come gli altri giorni della tua giovinezza, ornato dal più grande beneficio della provvidenza, il velo che nasconde il futuro. 6. È così che rispondi sempre. Bene. Il tuo silenzio mi fa sentire un tale dolore che sono ridotto a ringraziarti per il tuo silenzio. Eppure questo stato di ignoranza che ti sembra così dolce è terribile, Lelia. Mi tratti con sdegnosa leggerezza, perché non conosci il mio dolore. La tua infanzia può essere passata come la mia, ma la prima passione che si è accesa nel tuo petto non era, immagino, in conflitto con l'angoscia che è in me. Senza dubbio sei stata amata. Prima di amare, tu stessa, il tuo cuore, quel tesoro che implorerei ancora in ginocchio se fossi il re della terra, il tuo cuore era ardentemente chiamato da un altro cuore. Non conoscevi i tormenti della gelosia e della paura. L'amore ti aspettava. La felicità correva verso di te, ti bastava consentire ad essere felice, ad essere amata. No, tu non sai cosa sto soffrendo, altrimenti ti dispiacerebbe per me, perché finalmente, in fondo, sei buona. Le tue azioni lo dimostrano, nonostante le tue parole lo neghino. Ti ho vista addolcire sofferenze del popolo, ti ho visto praticare la carità del Vangelo con il tuo sorriso malvagio sulle labbra, nutrendo e vestendo gli ignudi e gli affamati mentre ostentavi un odioso scetticismo. Sei buona, con una bontà naturale e involontaria che la riflessione, la razionalità fredda non può toglierti. Se sapessi quanto mi rendi infelice, avresti compassione di me, mi diresti se devo vivere o morire, mi daresti subito la felicità che inebria o la ragione che consola.